È arrivato Milanalino. Legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Alle 7:19 minuti, signori, eccoci qua. Per quel che mi riguarda, ultima puntata del 2016, e poi ci risentiremo il 9 gennaio. Fate i bravi, non lamentatevi. Tanto Radio 24 va avanti lo stesso, anzi meglio. E quindi, Ale. Allora, alle 7:19, come detto, siamo nello spazio della rassegna stampa di 24 mattino. Andiamo a scoprire cosa ci propongono i giornali in edicola. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo a venerdì 23 dicembre e le aperture per molti sono dedicate al Monte Paschi. Sia il decreto banche, lo Stato salva Monte Paschi Siena e l'apertura del Sole 24 Ore, mentre il Corriere della Sera a Monte Paschi, la mossa del governo. Così Repubblica, banche, la resa del Monte Paschi, il tesoro tornerà padrone a Siena. Il Messaggero, salvataggio MPS, entra lo Stato. Il Giornale, lo Stato salva il Monte Paschi, ecco cosa succede ai risparmi. L'Unità, lo Stato salva MPS e risparmiatori. Invece la Stampa si concentra su una interessante notizia sull'altro tema finanziario del momento. Mediaset, Telecom, si muove il governo e vedremo di che cosa si tratta. Poi, vicende giudiziarie. Il titolo del Fatto Quotidiano è un'esclusiva, è indagato Lotti. Questo è il titolo, è indagine di PM di Napoli che riguarda il neo ministro fedelissimo di Renzi, l'inchiesta su appalti truccati e soffiati alla Consip, il titolo di prima pagina, indagato Lotti. Lui dice non ne so nulla, l'ipotesi di reato, favoreggiamento e rivelazione di segreto. La Verità, un'intercettazione tira in ballo Renzi nell'indagine sul capo dei carabinieri, clamorosi sviluppi nell'inchiesta napoletana rivelata dalla Verità che coinvolge anche il padre dell'ex premier. Mentre il titolo di apertura del Manifesto è senza risposta, riguarda la vicenda della trattativa sindacale per Almaviva, meno diritti ai tagli a un salario già misero. Questa è la risposta del governo secondo il Manifesto. Vedremo altre aperture poi nel corso della rassegna stampa. Voglio partire però da alcune notizie giudiziarie, perché ce ne sono tante, quindi le ho messe insieme. Intanto la vicenda di Garlasco, la famosa vicenda di Garlasco, quel delitto che inchiodò anche l'Italia, divise l'Italia come i grandi delitti, i grandi misteri sanno fare. E beh, c'è uno sviluppo dopo che si è saputo dai giorni scorsi che è stato identificato il DNA di un'altra persona, non di Alberto Stasi, che ha una condanna definitiva da scontare in carcere, sta scontando in carcere. Ebbene, lo sviluppo è questo, c'è una nuova persona indagata. Questo ragazzo, il cui nome non viene fatto sui giornali, e che è un amico del fratello della vittima, un amico dunque del fratello di Chiara Poggi, che frequentava la casa, che spesso si spostava in bicicletta, chi ha seguito le vicende di Garlasco sa che c'entrava anche una bicicletta. Insomma, Garlasco, aperta un'altra inchiesta, indagato il ragazzo del DNA su Chiara. Andrea Galli racconta, pagina 19 del Corriere, il suo profilo genetico, come svelato dal Corriere, coincide con i frammenti di DNA trovati sotto le unghie di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. Era un amico di Marco, fratello della 26enne. Frequentava l'abitazione di Via Pascoli, spesso muovendosi in bicicletta. La prima inchiesta sull'omicidio si era conclusa con la condanna definitiva a 16 anni per Alberto Stasi. Ma adesso, al termine dell'indagine difensiva dei legali dello studio Giarda, insieme a una società di investigazioni, la procura di Pavia ha aperto una seconda inchiesta accogliendo l'esposto della mamma di Alberto e iscrivendo nel registro degli indagati quel giovane all'epoca appena maggiorenne. Il giovane era già stato interrogato dai carabinieri due volte, una prima pochi giorni dopo il delitto e l'altra l'anno successivo, secondo fonti investigative, a un riesame l'alibi allora fornito presenterebbe anomalie e incongruenze. Sarebbe, usiamo il condizionale, uno sviluppo davvero clamoroso, Anche il Fatto Quotidiano dedica una pagina a questo tema. Chiara, svolta dopo 9 anni, IPM sull'amico del fratello. C'è un altro indagato. È chiaro che quindi Alberto Stasi, da una parte condannato, torna a sperare. E come racconta Davide Milosa sul Fatto Quotidiano, non si tratta di un presunto complice di Stasi. Cioè qui la storia raccontata in un esposto firmato dalla mamma di Alberto Stasi è un'altra, e cioè sarebbe un nuovo scenario per il delitto. Ovviamente bisogna, come sempre, usare tutti i condizionali del caso, ma si profila un'apertura di una ipotesi abbastanza incredibile. Staremo a vedere. Intanto andiamo sempre sul profilo giudiziario, sul Fatto Quotidiano, che, come detto, dà in prima pagina questa notizia, e cioè la notizia del avviso di garanzia indagato Luca Lotti. Questo è il titolo di prima pagina, indagato Lotti. Si tratta dell'inchiesta di Napoli. È un'inchiesta a Napoli, PM principale Woodcock. L'inchiesta sulla Consip, anche Lotti è indagato. Marco Lillo, a pagina 2 del Fatto, è indagato per rivelazione di segreto e favoreggiamento nell'ambito dell'indagine avviata dalla Procura di Napoli sulla corruzione in Consip. Fascicolo contenente l'ipotesi di reato su fughe di notizie è stato stralciato dal filone principale ed è finito a Roma per competenza territoriale. Dunque, a decidere il destino dell'uomo più vicino a Renzi sarà il procuratore Giuseppe Pignatone. Il braccio destro di Renzi, già sottosegretario, attuale ministro allo sport, aspirante alla delega sui servizi segreti con Gentiloni, è indagato a seguito di dichiarazioni del suo amico Luigi Marroni. L'ex assessore alla sanità della regione Toscana, nel suo esame come persona informata dei fatti, ha tirato in ballo anche il generale dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia, comandante della regione Toscana, indagato per le stesse ipotesi di reato. Ovviamente la notizia sicuramente fa un certo effetto, la notizia viene sparata in prima pagina, come si suol dire, indagato Lotti, bisogna vedere poi gli sviluppi. Lui dice: non so nulla di questa notizia. E mentre si difende, sempre in ambito giudiziario, vedete, rimaniamo, Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia, che è stato condannato in primo grado a 6 anni di carcere, con anche una confisca di beni di 6,6 milioni, perché l'accusa, secondo il primo grado, come racconta Giuseppe Guastella, pagina 18 del Corriere della Sera, per anni Formigoni, secondo l'accusa, è stato a libro paga di un'associazione criminale alla quale, in cambio di viaggi e vacanze faraoniche, almeno 270.000 euro in contanti, l'uso esclusivo di 3 yacht da nababbi, la comproprietà di una villa da sogno in Costa Smeralda. In cambio di tutto questo ha garantito una protezione globale che ha fatto arrivare un fiume di soldi regionale all'ospedale San Raffaele di Milano, 400 milioni, e alla clinica Maugeri di Pavia 200. Sono per i magistrati tangenti, per un valore complessivo di oltre 8 milioni di euro che costa la condanna per corruzione a 6 anni di carcere. Attualmente Formigoni è senatore, presidente della Commissione Agricoltura al Senato. È stato assolto invece dal reato di associazione a delinquere e Formigoni si difende in una serie di interviste. Amareggiato, certo, dice ad Andrea Senesi sul Corriere, ma l'impalcatura dell'accusa è caduta perché l'associazione a delinquere non c'è. I PM si sono abbracciati dopo la condanna. E sa perché? Perché mi hanno dichiarato una guerra personale. Il primo tempo lo hanno vinto loro. Usa in queste interviste la metafora del primo tempo, come dire, il primo grado l'hanno vinto loro. Io sono rispettoso delle istituzioni e dei magistrati. Aggiunge in un'intervista invece in un altro giornale: porterò questo, subirò questo calvario per anni e poi alla fine verrò assolto. Anche su Repubblica, intervistato da Andrea Montanari: qualche invito in barca, ma non mi dimetto, mi aspettavo un'altra sentenza perché il mio comportamento è sempre stato regolare. Sono stati assolti i funzionari della regione, è stata riconosciuta la correttezza delle delibere. L'accusa per cui mi hanno condannato corruzione è un'accusa grave, per questo sono molto amareggiato, ma curioso di leggere le motivazioni. Ho ricevuto moltissimi messaggi di solidarietà, mentre da Maroni sappiamo che da 4 anni ha il problema di differenziarsi. In ogni caso Formigoni si difende dicendo: non mi dimetto da nulla. E vabbè, Queste sono le vicende giudiziarie. Ce n'è un'altra che all'inizio mi ha fatto sorridere. Per carità, anche qui il condizionale d'obbligo è tutto da provare. Prima mi ha fatto sorridere, poi ha detto: ma no, ma questa mi ha fatto incazzare come una bestia. La notizia da mani sul volante se siete alla guida o se siete a colazione, ovviamente appoggiate tutti gli oggetti contundenti, soprattutto i coltelli. Ma guarda, un po' fa sorridere però il titolo. Il parroco faceva prostituire l'amante. Ci sono in questo titolo almeno 15 notizie. È già il parroco che ha un amante. Il parroco che farebbe prostituire l'amante. Ma voi capite che pagina 19 di Libero, Alessandro Gonzato, succede a Don Andrea Contin, 48 anni, parroco della chiesa di San Lazzaro, piccolo quartiere vicino al casello autostradale di Padova Est, denunciato da una sua parrocchiana con accuse gravissime e infamanti. La signora, nazionalità rumena, ha raccontato di essere stata obbligata più volte a avere con lui rapporti sessuali violenti e inoltre che il religioso l'avrebbe costretta ad andare con altri uomini in cambio di denaro. Tra l'altro, nella canonica, quando sono arrivati i carabinieri, hanno trovato una stanza a luci rosse con diverso materiale hard. E peraltro, amici di quella zona, è già il terzo prete in quel paese finito nei guai per il sesso. Ma porcaccia, ma che aria c'è? Che brezzolina spira da quelle parti? Cari amici, che brezzolina c'è a San Lazzaro, in provincia di Padova? Cosa succede lì? È già il terzo prete. Eccolo qua, il parroco faceva prostituire l'amante. Agghiacciante quello che dicono. È una vergogna. Tanti auguri Milan, che te pozzino via fuoco, ciao. Grazie, grazie. Ovviamente sì, ci scrivono giustamente che non è un paese ma una zona di Padova, San Lazzaro. C'è un ascoltatore che mi scrive: sono di San Lazzaro, non è tutto chiaro, la magistratura farà le indagini. Sì, effettivamente hanno trovato, come dire, la camera a luci rosse, questa è stata un'irruzione dei carabinieri, quindi l'ha trovata, per carità, poi le accuse. Certo che il titolo "Il parroco faceva prostituire l'amante" è un titolo di quelli quasi epocali, storici. Va bene, dai, parliamo d'altro. Parliamo intanto di Berlino, parliamo di noi, parliamo dell'Italia, il terrorismo internazionale, la strage in Germania. Intanto si è saputo qualcosa di più di questo Anis Amri, tunisino. E per esempio si è saputo che si è radicalizzato in carcere in Italia. Questo è il titolo di pagina 10 del Sole 24 Ore. Ivan Cimarussi e Roberta Miraglia raccontano un po' la sua storia in sintesi. Il tunisino Anis Amri, autore della strage di Berlino, si sarebbe radicalizzato in Italia nel carcere di Agrigento. In prigione ha avuto comportamenti violenti, minacciava detenuti al grido di "sei un cristiano, ti taglio la testa". È quanto emerge dai documenti in mano alla procura di Roma mentre prosegue la caccia all'uomo in Germania, nell'area Schengen, anche in Italia. Dice Angela Merkel: lo cerchiamo in tutta Europa ed era noto da tempo alla polizia tedesca. E anche qui ci sarebbe qualcosa da chiarire, ma tra poco lo faremo con un altro articolo interessante che voglio leggere. Comunque, il ministro dell'interno tedesco ha ottenuto un mandato di cattura internazionale che ha sostituito l'ordine di ricerca di mercoledì. E la Germania ha trovato le impronte digitali nella cabina del camion di questo Anis Amri, quindi ormai non ci sono dubbi che sia lui in fuga l'autore di questo attentato. Tutti i giornali raccontano appunto le minacce ai cristiani, l'inni al jihad. Amri si è radicalizzato in cella in Sicilia. Questo è il titolo dell'articolo di Felice Cavallaro a pagina 10 del Corriere della Sera. Anche Carlo Bonini e Salvo Palazzone in prima pagina di Repubblica raccontano da Lampedusa a Berlino come nasce un terrorista. Tra l'altro ci sono anche delle foto che riprendono Anis Amri vicino a una moschea a Berlino. Arrivato con un barcone a Lampedusa nel 2011, la radicalizzazione in carcere, le minacce a un altro detenuto cristiano: ti taglio la testa. Questa la trovate su tutti i giornali, come trovate l'intervista a pagina 7 del Messaggero a Francesca Vazzana. Chi è? È la direttore del carcere di Pagliarelli, che ricorda perfettamente Anis Amri, detenuto anche a Palermo da settembre a gennaio 2015, quindi pochi mesi, da settembre 2014 a gennaio 2015. Era un detenuto problematico, dice il direttore del carcere, provocava sempre situazioni estreme, aveva un comportamento aggressivo che rendeva impossibile la sua convivenza con altri detenuti o pericolose le relazioni col personale penitenziario. Era con ogni evidenza un soggetto che manifestava un disagio psicologico. Alla luce dei fatti accaduti sembra scontato la conclusione che si sia radicalizzato in carcere. Amri aveva atteggiamenti che generalmente assumono le persone che non stanno bene, che hanno un disagio psicologico. Il totale rifiuto delle regole sfociava spesso in aggressività. Ovviamente io lo so, la domanda che nel retro del vostro cervello si è sedimentata già da qualche minuto. Dici, ma perché stava libero? Perché era libero di poter andare? Evidentemente aveva scontato la sua pena. Però è una domanda che non è una domanda populista, come ti dicono sempre gli sciocchi. E infatti se la pone questa domanda un magistrato, se la pone Cataldo Motta, che è a capo della procura di Lecce fino all'altro ieri e che in un'intervista al Giorno, oggi ribadita con un'intervista, dice: espellere i jihadisti non basta, bisogna arrestarli. L'avevo detto che arrivano sui barconi. Procuratore di Lecce, Cataldo Motta, l'avevo detto, dice al Giorno, in tempi non sospetti, perché consideravo più facile per un terrorista confondersi tra una massa di persone rispetto a girare negli aeroporti col rischio di essere inquadrato da centinaia di telecamere. Non è bastato il suo allarme? Beh, si continua a lavorare, ma ci sono strumenti non idonei. Le forme repressive non bastano assolutamente, le espulsioni sono un esempio di come non risolvano il problema. Espelliamo chi è fortemente sospettato di essere terrorista e poi ce lo ritroviamo poco dopo di nuovo sul territorio. Bisogna forse migliorare le leggi, crede Matteo Massi del Giorno. Non credo, anzi c'è un surplus di leggi, dobbiamo anche tenere conto di quelle che sono le normative europee. E allora come muoversi? Beh, se la repressione con le espulsioni ha dimostrato di non essere lo strumento utile, dobbiamo cominciare a ragionare sulla prevenzione. Per renderlo ancora più efficace diventa fondamentale la cooperazione con gli altri paesi. E va risolto il dilemma dei centri di identificazione e espulsione. Cosa sono? E con i CIE va chiarita la questione della restrizione di libertà. Bisogna fermare e arrestare i soggetti pericolosi. Questo dice il procuratore di Lecce, Cataldo Motta. Arrestare i soggetti pericolosi. E poi si dirà, ma tanto poi c'è un giudice che li lascia liberi perché non c'è la normativa che consente di tenerli in carcere. Si faccia. Altrimenti troviamo la situazione come raccontano tutti i giornali, leggo qua da Repubblica. L'esercito dei fantasmi, 50.000 migranti espulsi che spariscono in Europa. Cioè ogni anno, racconta in questa inchiesta Alessandra Zeniti insieme a Francesco Viviano, ci sono 50.000 che ricevono il provvedimento di espulsione, non lo rispettano, tante volte i paesi da cui sono, dove dovrebbero entrare non li vogliono neanche, come questo tunisino, e scompaiono, diventano dei fantasmi con sette nomi diversi, diventano non controllabili, non controllati, sono espulsi ma in realtà sono tra noi e molto spesso pericolosi. Eccolo qui, 50.000 migranti l'anno espulsi in tutta Europa, non in Italia, in tutta Europa 50.000 che diventano fantasmi. Allora, lasciamo questo tema, entriamo sul tema finanziario economico, il Monte Paschi. Oggi dovete leggere il Sole 24 Ore con attenzione, perché ovviamente ci sono tutte le novità sul decreto banche, lo Stato che ha salvato Monte Paschi, fallito l'aumento di capitale da 5 miliardi, ormai era cosa abbastanza ovvia. Per Monte Paschi è arrivato il salvataggio di Stato, obbligazioni subordinate che saranno convertite forzosamente in azioni, ma per i piccoli investitori arriva un indennizzo pari al valore di carico dei titoli, con riconoscimento di bond ordinari. Gianni Trovati scrive a pagina 3 del Sole 24 Ore, nella notte, il sì al decreto banche, salva banche. Ovviamente i dettagli si sapranno meglio in giornata. Comunque il fondo da 20 miliardi di indebitamento aggiuntivo autorizzato mercoledì dal Parlamento sarà utilizzato per le ricapitalizzazioni precauzionali e le garanzie sulla liquidità per le banche che lo chiederanno. Ovviamente la prima richiesta arriva dal Montepaschi, che dopo aver alzato bandiera bianca sull'aumento di capitale andrà incontro alla conversione forzata dei titoli subordinati. I piccoli investitori, scrive Trovati, in particolare i 40.000 circa che hanno acquistato l'Upper Tier 2 del 2008, si vedranno però indirizzare un rimborso pari al valore in cui hanno in carico il titolo. Questi sono i contenuti chiave del decreto salvabanche approvato dal Consiglio dei Ministri convocato ieri sera e approvato appunto in tarda serata. Tra l'altro Vito Lops fa nella pagina successiva, pagina 4, la bussola del risparmiatore, proprio cosa succede, la guida pratica per gli obbligazionisti. Chi aveva aderito alla conversione torna per poco in possesso dei bond, poi scatterà il burden sharing con ristoro integrale. E poi c'è Isabella Bufacchi che racconta l'esame della BCE, cioè tutto ciò, soprattutto il test di liquidità, come verrà accettato e come dovrà presentarsi di fronte alle regole europee. Insomma, sul Sole 24 Ore c'è molto della situazione Montepaschi. Voglio saltare però sulla Stampa, perché la Stampa apre con una notizia in prima pagina che riguarda l'altra vicenda finanziaria di questi giorni, vale a dire Vivendi Mediaset, e la notizia della Stampa è molto interessante. È Francesco Bei che firma un lungo articolo, il titolo di prima pagina è Mediaset Telecom si muove il governo. Di che cosa si tratta? Beh, secondo questo lungo articolo, il governo avrebbe una strategia, una controffensiva nei confronti di Bolloré e nei confronti di Vivendi per arginare la scalata di Vivendi a Mediaset. Di cosa si tratta? Sentite qui. Quando hai poche legioni e i galli sono in sovrannumero, attaccali dove meno se lo aspettano. Ecco, il governo italiano alle prese con l'offensiva francese su Mediaset sembra stia facendo tesoro della Giulio Cesare e del debello gallico. Se nella scalata Mediaset Roma sembra avere poche armi a disposizione, in queste ore ai piani alti di Palazzo Chigi e dei ministeri interessati si starebbe ragionando su una controffensiva direttamente sul quartier generale nemico. E di cosa si tratta di questa controffensiva? Una controffensiva del governo su Telecom, dove Bolloré è già l'azionista di controllo. Il problema non sarebbe tanto una Mediaset transalpina, quanto la concentrazione enorme di potere che ne deriverebbe accoppiandolo Mediaset a Telecom. Chi comanda Telecom controlla il traffico dei dati e comunicazioni d'Italia, compresi quelli sensibili, e dunque una abbinata Telecom-Mediaset fa paura. E allora ecco che non è su Mediaset che si concentra l'attenzione del governo, ma su questo ragionamento: Bolloré vuole Mediaset e noi, governo, attacchiamo su Telecom, la casa matta di Bolloré. Da ambienti finanziari vicini all'industriale bretone trapela la notizia di un'accelerazione dei piani per la vendita di Telecom al colosso francese Orange. Al governo italiano il piano non è sfuggito. E allora la contromossa sarebbe far saltare questa vendita, mettendo in campo l'unica vera massa d'urto rimasta, la cassa depositi e prestiti, che potrebbe entrare nel capitale di Telecom per pareggiare la quota di Vivendi con un costo stimato di 2,5 miliardi di euro. Questa sarebbe la contromossa del governo, cioè il governo cerca di correre ai ripari, fermare i francesi facendo entrare la cassa depositi e prestiti nel capitale dell'azienda di telecomunicazioni per bloccare la vendita di Telecom ai francesi di Orange e costringere ovviamente così Vivendi e costringere Vincent Bolloré, il finanziere, a trattare su Mediaset, e poi c'è la partita anche di generali. Questo è lo scenario finanziario che trovate sulla Stampa. Francesco Bei, beh, è interessante comunque come lettura, bisogna verificare quanto ci sia di vero, ma certo è la notizia che la Stampa mette in prima pagina. Va bene, dai, mettiamola come farebbe quel debosciato in ferie di Mauro Meazza. Tutto ciò premesso, traffico! Alessandro Milan, il Bonobox dell'informazione. You got to get Adesso dobbiamo, come al solito, ti ringrazio per questa cosa che abbiamo fatto vedere anche in diretta Facebook, ma dobbiamo continuare con la rassegna stampa come al solito, eh? Siamo in diretta anche sulla mia pagina Facebook, in cui sto cantando Bono, ovviamente molto meglio di come farebbe lui, però è il momento serio della rassegna stampa, quindi non è che possiamo buttarci in musica, se no vado a lavorare da Rossella Brescia, RDS, la mia amica, e insomma, porto anche te Peter, anche te Lorenzo, vai, rassegna stampa. Vabbè, allora, ci siamo. Allora, era bello questo articolo, lo trovate ovviamente su tutti i giornali del mondo, momento di pazzia. Siamo qui alle 7:50 minuti, Roma, ragazzi a Roma, pure il concertone di Capodanno l'hanno tolto, non lo so, magari voi non interessa particolarmente, comunque niente sponsor, salta il concertone. Tra l'altro abbiamo ospite l'assessore al bilancio, quel bilancio che è stato bocciato, Mazzillo, ospite qui, dopo il giornale radio delle 8. Niente sponsor, salta il concertone, il Capodanno austero della capitale su tutti i giornali finisce questo. In realtà, vedete, la giunta Raggi perde anche il concertone, adesso c'è un po', come dire, di attenzione mediatica a tutto quello che succede a Roma. La verità è più sull'aspetto giudiziario. Così lo staff di Raggi fu avvisato delle cimici. Le cimici negli uffici di Marra. Lo staff di Raggi fu avvisato. Questo racconta Fiorenza Sarzanini a pagina 8 sul Corriere della Sera. È per questo forse che Virginia Raggi ogni tanto è stata immortalata a fare delle riunioni sul tetto del Campidoglio? Lei aveva detto, ma è un luogo dove uno può ammirare, può concentrarsi. Forse banalmente era un modo per parlare lontano da orecchie indiscrete. No, sapete che c'è questa foto che circola di lei che faceva queste riunioni sul tetto. Vabbè, poteva mancare il gossip in questa vicenda giudiziaria? Siccome ci sono delle parti di omissis in questa inchiesta, è stato l'ex vice sindaco di Roma Daniele Frongia a rispondere su sospetti che sono stati diffusi anche da siti di gossip, e cioè di una possibile relazione proprio sentimentale tra Virginia Raggi e Marra. Ed ecco allora che Frongia dice: se ne parla ma è solo fango. E vabbè, c'è anche il lato gossip su questa vicenda. Il giornale dedica una pagina addirittura a questo. Marra, amante di Raggi, il giallo degli omissis sul cerchio della sindaca. Va bene. Altra vicenda invece particolare, quella del ministro Poletti, o meglio del figlio del ministro Poletti, che ora denuncia lui, Manuel Poletti, minacce di morte. È andato alla polizia dopo la vicenda delle famose dichiarazioni improvvide del padre e poi la sua difesa da parte del figlio. Tra l'altro, sul figlio di Poletti non è che finiscono le indiscrezioni. Sentite qui sul Giorno c'è una ricostruzione di Francesco Monti che ora fa una pagina dedicata alla resistibile ascesa di Poletti Junior il direttore imposto dalla Coop del PD. Accuse di plagio, addirittura è stato accusato di copiare alcuni articoli di colleghi quando era collaboratore dell'Unità. Vabbè, questo racconta il Giorno del figlio di Poletti a pagina 10. Siamo sempre sul Giorno? Eccolo qui, la lotta ai furbetti. I cartellini facili, succede a Corbetta in provincia di Milano. Racconta Camilla Garavaglia, pare sia stato trovato un altro caso di furbetto del cartellino. In questi casi sono due operai del comune che sono stati licenziati. Esce prima, il collega timbra per lui. Licenziati due operai del comune. Ora rischiano l'accusa di truffa ai danni dello Stato. E il Giorno dedica una pagina a questa. A proposito di lavoro, però, voglio anche segnalarvi la vicenda contrattuale dei dipendenti di Almaviva. Il Manifesto da tempo dedica molte pagine a questa vertenza sindacale che riguarda migliaia di posti di lavoro e per la precisione 1665 posti di lavoro. Il ricatto di Almaviva, il governo complice, il difficile no di Roma. Oggi Antonio Sciotto fa due pagine sul Manifesto per raccontare questa vertenza sindacale che ieri ha avuto degli sviluppi con 2.511 procedure di mobilità congelate per 3 mesi. Si continua a trattare, questo sarebbe l'accordo. Ma con un out-out, scrive il Manifesto, posto sostanzialmente dal Maviva, cioè accettate di lavorare di più le stesse ore ma con meno salario, o altrimenti noi abbiamo già aperto in Romania e le commesse le portiamo là. Scrive il Manifesto, parole mai dette così esplicitamente, ma parlano i fatti. L'azienda chiede un taglio alle retribuzioni solo temporaneo, legato al periodo del risanamento, denunciando perdite ormai assestate sui 2 milioni di euro al mese. E ovviamente c'è questa vertenza sindacale, certo non un buon Natale per tutte queste persone che lavorano lì e rischiano di perdere il posto di lavoro e già sono in una situazione di difficoltà economica. Va bene, siamo quasi in chiusura, abbiamo una pagina del Corriere della Sera che non è la pagina della carta costa, articolo più inutile sui giornali, cioè come sta la regina Elisabetta? Non è questa però, attenzione alla carta costa. Il viaggio di Natale in elicottero. Rinuncia al patrocinio di 25 organizzazioni. Fiato sospeso per la salute. Regina Elizabeth. Come sta Regina Elizabeth? Come sta la regina? I giornali per Buckingham Palace è solo un brutto raffreddore. Ha 90 anni, un po' come me. È conciata un po' così. Però, secondo il Daily Telegraph, per esempio, c'è qualcosa che cova sotto. Come sta la regina? Questo se lo chiede per un'intera pagina del Corriere della Sera. Ma siamo all'articolo più inutile scovato sui giornali, una pagina di Vittorio Sabadin su La Stampa, sui piccoli trucchi scientifici per vincere ai giochi del dopo cenone. Volete sapere il trucco per vincere a Risico? Mai conquistare l'Australia. Volete sapere il trucco scientifico per vincere a Scarabeo? Parole brevi, brevi, non pensate quelle lunghe che poi gli altri ci appiccicano le loro parole brevi. I trucchi per vincere a Cluedo, a Monopoli, a Battaglia Navale. Ma chi se ne frega!